In collegamento telefonico con Sergio Visinoni di Lab 80 per parlare di Cinetascabile. Il cinema racconta il teatro. 10 serate di film sotto le stelle al Chiostro del Carmine in Città Alta, sede del Teatro Tascabile di Bergamo, dal 28 luglio al 25 agosto. Sergio, benvenuto. Grazie. Ci racconti un po'? Ma certo, allora, intanto siamo molto contenti di partecipare ancora a questa iniziativa che si chiama Arcate d'Arte ed è organizzata da Teatro Tascabile di Bergamo e che è alla quarta edizione, che appunto vede sempre uno spazio dedicato al cinema che appunto Teatro Tascabile ci dà per animare alcune serate estive. Che praticamente coprono tutto l'arco di agosto in una cornice veramente eccezionale che è quella del Chiostro del Carmine, che è un angolo magari poco conosciuto di Bergamo Alta, ma che merita, al di là delle proiezioni, comunque una visita perché è molto, molto caratteristico. In più, appunto, avere la possibilità di godere un film e di film anche molto belli in quella cornice è veramente un'occasione d'oro. Bene. E i titoli? Allora, i titoli sono tutti film che hanno comunque a che fare con il teatro, perché il Festival Arcate d'Arte ha come sottotitolo Consonanze di teatro, cultura e arte. È un festival multidisciplinare proprio. E quindi abbiamo cercato dei titoli che raccontassero il teatro attraverso il cinema o comunque intrattenessero con il teatro un rapporto interessante a livello narrativo, a livello di soggetto, e spaziamo un po' in tutti i luoghi e in anche epoche diverse della storia del cinema. Andiamo dagli anni 40 con To Be or Not To Be, che in italiano ha come titolo Vogliamo Vivere, fino ad arrivare credo che ai film anche molto, molto recenti con Nina di Joe Wright, che è un film americano con Keira Knightley e Jude Law. E niente, attraversiamo anche diverse cinematografie, appunto da Hollywood al cinema italiano, ad alcune cinematografie magari meno conosciute, come il film dedicato ai fratelli Karamazov di Petr Zelenka. Niente, insomma. Cerchiamo di dare un panorama abbastanza ampio e un'offerta di grande qualità al pubblico che ci verrà a trovare. Sono dei giorni fissi settimanali? Sono i sabati e i venerdì, Ok. fondamentalmente. Abbiamo anche un appuntamento di martedì con Pallottole su Broadway di Woody Allen il 21 agosto. Per il resto, appunto, partiamo dal 28 luglio, sabato, e arriviamo fino al sabato 25 agosto. E ci sono chiaramente dei link che rimandano per maggiori informazioni e dettagli a qualche spazio web. Sì, certamente si possono trovare tutte le informazioni su lab80.it, 80 in numero, e anche su teatrotascabile.org, Benissimo. dove troviamo tutto il programma. Ricordiamo allora la rassegna Cinetascabile, il cinema racconta il teatro, 10 serate a Bergamo, Chiostro del Carmine in Città Alta, sede del Teatro Tascabile, dal 28 luglio al 25 agosto. Un saluto e un ringraziamento a Sergio Visinoni di Lab 80. Sergio, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Presto, grazie mille.